Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Sono le 8 e 20 minuti di giovedì 8 ottobre, care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia, la terza parte di 24 mattino. Più avanti nel corso della trasmissione parleremo di immigrazione, torneremo a parlare di immigrazione dopo le modifiche ai decreti Salvini o decreti sicurezza, chi li chiama in un modo, chi li chiama nell'altro, ragionando soprattutto intorno al tema della gestione dell'accoglienza. Le immagini della rivolta dei migranti tunisini ad Agrigento delle scorse ore più o meno ce l'abbiamo negli occhi tutti. Abbiamo tutti i racconti da ICARA, dai centri di accoglienza per richiedenti asilo, dall'Italia. Abbiamo ancora negli occhi le immagini dei ghetti d'Italia come Borgo Mezzanone, dove nei giorni scorsi c'è stato un altro incendio, dove al momento ci sono 1500 persone nelle baracche e altre 600 hanno invaso il CARA, il centro di accoglienza, che adesso è svuotato. Lo faremo con due posizioni diverse, quella di un esponente della Lega e di un esponente del Partito Democratico. I vostri interventi, se vorrete, all'800 24 0024 per chiamarci in diretta, o al 349 238 6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp. Adesso è il momento di un punto di giornata con il nostro Paolo Mieli. Paolo, buongiorno, eccoci. Buongiorno, eccomi qua. Partirei dalle cose della notte, che dici? Partiamo dai due, dal confronto tra i vicepresidenti, tra i candidati vicepresidenti. Bellissimo dibattito, anche se non all'altezza come spettacolarità di quello fra Biden e Trump, però insomma piano di gusto, anche perché qui era a parte invertita la democratica. Kamala Harris era una diavolessa e Mike Pence un po' più spento. Allora, secondo quello che hanno fatto, perché sai, negli Stati Uniti si fanno immediatamente dei sondaggi di opinione, ha stravinto la Harris 59-38, lo prendo dal sito della CNN, però il centro di tutto questo dibattito è stata una scena da film western di Sergio Leone, una mosca che si è posata su Pence ed è rimasta lì mezz'ora, insomma molto molto a lungo, e poi è diventata virale perché questa mosca sulla testa di Pence, sono state fatte anche interpretazioni, una benedizione, una maledizione. Comunque l'America dà sempre sorprese, e fra le sorprese di stamattina, questo invece lo troverete sui giornali, che con una cauzione di $1 milione è uscito di prigione Derek Chauvin, che è il 44enne poliziotto che il 25 maggio scorso uccise col ginocchio sul collo George Floyd. È una notizia anche questa che fa impressione: il sistema americano con cauzione, tranne in casi estremi, può uscire chiunque, la cauzione è alta, però è libero, fuori prigione. Sì. E l'America, comunque tutti i giornali americani stamattina danno per vincitore sicuro Biden, e dicono che i sondaggi sono troppo distanti, certo le sorprese sono possibili, e dovesse esserci uno stravolgimento, ormai manca poco più di un mese insomma seguiremo con attenzione la preparazione, e allora se ne andrebbe anche un mondo che è quello dei sondaggi, dovesse vincere Trump. Ah beh, certo, perché, certo. Perché adesso i sondaggi non dicono vicinissimo, a un passo lì 50-50, dicono che ci sono distanze anche stanotte fra Mike Pence e Kamala Harris, cioè distanza di 20 punti, e se ti sbagli su una distanza di 20 punti vuol dire che lo strumento, senza colpe, È sbagliato. Per i sondaggisti. È sbagliato, evidentemente. Oh, tra le battute, tra una delle battute più carine sul dibattito di questa notte sulla mosca, Pence non ha rimosso la mosca se n'è andata quando ha iniziato ad annoiarsi. Non è male, Caruccio, è carina, è carina. Paolo, vedi, ti voglio la farsi... mosca... dimmi. Sì. Dimmi, dimmi. No, no, dico, la mosca è stata la vera protagonista di questo dibattito. Grande protagonista di questo dibattito. Ti faccio sentire la voce del presidente del Consiglio Conte, al quale tra l'altro, adesso sentirai, secondo me abbiamo trovato un piccolo tic linguistico tra la caducazione e altro. Vai, c'è una risalita della curva di contagio, di qui quindi la deliberazione di prorogare lo stato di emergenza al 31 gennaio dell'anno prossimo. La deliberazione, vedi che c'ha un po' questa il linguaggio tendenza. Giuridico lo porta, però noi stiamo sulla caducazione, perché si avvicina, carità, il giorno, poi carità. Ne parliamo un attimo. E comunque sì, il contagio sale. Quali sono le tre notizie del giorno? Tre notizie minori, perché non vi sto a ripetere tutte le cose che leggete sulle prime pagine dei giornali. Una è che Bergoglio, il Papa, ieri ricevendo nell'aula Paolo VI, tutti i suoi, insomma, le persone che doveva ricevere, senza mascherina, abbracci, baci, strette, e qualche giornale, ne segnalo uno per tutto, il Giornale, perché lo mette a pagina 3 in maggiore evidenza, dice, beh, insomma, se lo dice con tutto il garbo, senza fare come se si trattasse di, non so, di un nemico politico. Però siccome le foto circolano, le immagini circolano, qualche, a parte il fatto che, come ricorderai, in Vaticano c'è stato uno spiccinio di altri prelati che sono stati colpiti dal Covid, certo. Comunque insomma una maggiore... Poi secondo, da capo dello Stato, Paolo, da capo dello Stato a capo dello Stato bisogna prestare maggiore attenzione. Sì, suggerirei maggiore attenzione anch'io. Sileri, che è un personaggio notissimo dall'anno scorso, ha detto che i virologi di Stato, quelli del Comitato Tecnico Scientifico, secondo lui litigano un po' troppo, hanno, insomma, non gli piacciono. Ieri c'è stata una tempesta, poi la sera è stata messa a tacere, parziali ritrattazioni, però c'è qualcosa che non va nei virologi di Stato. Questo secondo anno scolastico, sì, per il CTS le cose saranno meno tranquille, perché poi bisognerà sapere di più in tempo reale cosa pensano, se sono univoci, le loro indicazioni sembrano poco chiare. Intanto il Fatto è partito con una battaglia contro Matteo Bassetti. Matteo Bassetti è conosciutissimo perché è quello che ha detto dopo il Genova, che il Genova è stata la Waterloo dei tamponi, sì. Poi ha scherzato, dice che abbiamo il virus fornaio che contagia solo di notte. L'abbiamo avuto ospite ieri, tra l'altro, Bassetti, l'ho avuto ospite ieri. Oggi sì, l'ho sentito ed era... Sì. È simpatico, lui è un personaggio simpatico, ma secondo il Fatto Quotidiano è un leader della destra italiana, l'infettivologo ligure di riferimento del centrodestra. Io non me ne sono accorto, e mi sono invece accorto di lui perché ha fatto pubblicità per un'azienda di cravatte, poi ha messo la sua foto nelle certificazioni di sanificazione e derattizzazione di un'azienda. È uno che sa vendersi sul mercato, sì. Però ieri con te è stato contenuto. Sì, sì, sì. Oggi Selvaggia Lucarelli firmò questo pezzo feroce, feroce sul Fatto Quotidiano, a pagina 17. Hai visto altro, Paolo? Sì, che hanno condannato Alba Dorata, che è il gruppo di estrema destra in Grecia, ne hanno condannati il 68, perché la cosa principale è che hanno ucciso, alcuni di loro avrebbero ucciso un rapper, Pavlos Fissas, tempo fa, poi avevano infastidito con violenza delle persone. Da ricordare, uno dice, vedi, in tutti i paesi la giustizia colpisce, addirittura mette fuori legge, però... Forse non è per questo. Alba Dorata erano terzi in Grecia alle europee del 2014, avevano insomma il 10% dei voti, così. Ma nel 2019 fecero un bagno, presero lo 0,11. Viene da pensare che la stagione dei processi e delle condanne arriva dopo, cioè dopo l'exploit completo e il corso completo della loro vicenda politica, cioè non si inserisce quando vincono, anche se molti capi di imputazione c'erano già, quando vincono li lasciano stare, poi a fine corsa, come se fosse un bilancio, non sto dicendo che questo è un bene, però sto dicendo che altri paesi si comportano in modo diverso dal nostro. Sì. E a proposito di giustizia, tutti devono sapere che il giudice più importante d'Italia, il magistrato più importante d'Italia, per Camillo Davigo, il 20 ottobre compie 70 anni. Lo devono sapere non perché gli devono fare gli auguri, appunto, non è che dovete chiamare Davigo, almeno che non siate amici e vogliate farlo, naturalmente. Se lo siete, sappiate che il 20. Comunque, anche se siete semplici conoscenti, fate gli auguri, ma la vera cosa è che quel giorno scoppierà un pandemonio. Perché? Perché inesorabilmente, quando si compiono 70 anni in magistratura, bisogna andare in pensione. Ma Davigo è stato eletto membro del Consiglio Superiore della Magistratura, ha tra le mani il giudizio sul caso Palamara, e lui dice, ed è al secondo anno dei quattro che deve fare, lui dice: io vado in pensione come giudice, ma rimango nel Consiglio Superiore della Magistratura. Allora, i suoi amici, il fatto lo difende, c'è un articolo al giorno per dire sì, ha ragione, ha tutti i diritti, ma siccome la cosa non ha precedenti e invece altri magistrati la criticano, dicono: no, la legge è legge, tutti vanno in pensione, non si può rimanere giudice dentro il Consiglio Supremo Magistrato, dentro il Consiglio Supremo della Magistratura, andare in pensione sembra una cosa burocratica. Sì. Connessa con il pensionamento, quando Piercamino Davigo potrà stare con i nipoti, ma non è così, è il diritto a giudicare poi del caso più importante degli ultimi 20 anni, il caso Palamara, o no, o dover cedere il passo. Sarà una questione molto interessante, seguita. La terremo presente. Quindi a questo punto abbiamo un altro ultimatum, Paolo, che è quello del 20 di ottobre, che è la data del compleanno di Davigo. Sì. Tra due giorni scade. L'altro ultimatum è quello di Carlo Calenda, che ha detto quello è già scaduto, perché secondo me ieri Zingaretti, dicendo che vuol fare le primarie e mettendo in campo quelli che i giornali hanno già 7 candidati che hanno ribattezzato i 7 nani, perché non sono candidati di carattere epocale, non c'è fra di loro né Ottaviano né Giulio Cesare né Alessandro Magno, e quindi essendoci 7 nani, Calenda gli ha già tagliato le gambe, secondo me non va a competere con i 7 nani, perché, però questa è un'impressione. Vedremo. Resta in piedi un solo ultimatum, quello della caducazione di guarda che la caducazione di Autostrade, c'è cioè l'espulsione, la revoca ai Benetton. Oggi è uscita, un giorno dal termine dell'ultimatum, una lettera dell'associazione Autostrade che sostiene che il ponte Morandi aveva dei difetti di costruzione, cioè il ponte fu costruito fra il 63 e il 67, se aveva dei difetti di costruzione non sono riconducibili alla gestione Benetton, quindi è un impiccio. Può darsi, io non te lo auguro, perché ti sfotterò per tutta la prossima settimana, che la caducazione venga ulteriormente prorogata. Spero per te che non sia così, perché faresti hai visto, a proposito, prima che finiamo che chiudono il Salone Margherita. Vedi? Il Salone Margherita, che era, ospitava il bagaglino, cioè il tempio di uno spirito, a me non mi divertiva affatto, però insomma andò per la maggiore durante i tempi della Prima Repubblica, satire di Andreotti, di Occhetto, di tutti quanti, chiude, ma si scopre che chiude perché è il palazzo di proprietà della Banca d'Italia, cioè l'ente più serio che esista in Italia ospitava il possessore delle mura, ospitava il bagaglino, l'ente più faceto. Niente male. Non è una storia italiana tipica, bellissima. Sì, direi di sì. Grazie Paolo, ci sentiamo domani mattina alla vigilia della caducazione. A domani, ciao Paolo. Ciao. Quattro mattino. La rivolta delle scorse ore ad Agrigento, quando 65 migranti di origine tunisina hanno dato fuoco a dei materassi, ci sono 3 agenti feriti, alcuni sono scappati. Quello che raccontavamo ieri in rassegna stampa da Avvenire, un reportage che ci portava al CARA, il centro di accoglienza per richiedenti asilo di Isola Capo Rizzuto, dal quale le persone appunto escono, passano una notte nel capannone, anzi 48 ore in un capannone, e da là vengono prese dai caporali e portate a fare gli schiavi nei campi. Ancora, e succede ancora. Le cronache da Borgo Mezzanone, lo ricordate, tra Foggia e Manfredonia, quello che veniva chiamato il Gran Ghetto, è ancora un ghetto. 1500 persone là, 600 a quanto pare che sono... si sono trasferite nel CARA, che adesso è stato svuotato, incendi nelle baracche. Come avrete capito, parliamo di immigrazione adesso. E però la mia intenzione sarebbe di soffermarmi a 2 giorni dalla modifica dei decreti Salvini o decreti sicurezza, a seconda di come la si veda politicamente, li si chiama, soffermarmi sul tema dell'accoglienza e di come funziona l'accoglienza nel nostro paese. L'impressione è maluccio. Però aspetto anche le vostre opinioni. 800 24 00 24. Però per ragionarci intorno ho 2 persone che spero che mi aiutino, perché se ne occupano e se ne sono occupate. Il primo è Nicola Molteni, deputato della Lega. Nel primo governo Conte è stato sottosegretario all'interno. Molteni, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. E secondo Matteo Biffoni, sindaco di Prato, che per l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni, si occupa esattamente di immigrazione, quello che ha in mano il dossier immigrazione. Biffoni, eccoci. Buongiorno anche a voi. Buongiorno a tutti. Allora Molteni, come la legge? Come legge la questione? Come legge il problema? Perché l'impressione di molti osservatori è che non è che su questo fronte i decreti Salvini abbiano avuto grande efficacia. Ma io dico che l'immigrazione è un fenomeno globale e complesso che va gestito e governato. Io credo che la sfida di un paese sia quella di avere immigrazione selezionata, utile e necessaria allo sviluppo del paese. E noi dobbiamo chiederci se in questo momento storico, in modo particolare in questo particolare momento storico, l'Italia ha bisogno di nuova immigrazione oppure no. Un'Italia che ha problemi, che ha tanti problemi sul fronte economico, che ha sempre più disoccupati, che ha sempre più cassi integrati. L'Italia ha bisogno di nuova immigrazione? Io dico di no, ma certo è che l'immigrazione incontrollata, l'immigrazione irregolare, l'immigrazione non gestita crea esattamente i problemi che ha appena raccontato lei. Centri d'accoglienza che vanno fuori controllo, rivolte all'interno dei centri di accoglienza, immigrati sfruttati, sottoposti a caporalato, che aumentano nonostante una legge fatta nel 2016 che non ha prodotto ottimi risultati, centri di accoglienza fuori controllo, scontro sociale, tensione sociale, disagio sociale, e io credo che i decreti di sicurezza di Matteo Salvini, perché quelli di cui sono stati, perché i decreti approvati dal governo ieri non sono né decreti di sicurezza né decreti di immigrazione, sono decreti clandestini e di sicurezza, credo che quei decreti, i nostri decreti, che rivendico e di cui vado perfettamente orgoglioso, andassero esattamente nella direzione giusta, cioè garantire accoglienza a chi scappa da guerre e da persecuzioni, e quindi pochi, nei confronti dei quali l'accoglienza deve essere declinata con una giusta integrazione, perché per fare buona integrazione la si fa su piccoli numeri. Se tu fai entrare 700.000 persone, come è accaduto dal 2012 al 2017, o le integri tutte 17.000 o tutte 700.000, e la forma di integrazione principale non è quella di mettere soldi a caso arricchendo le cooperative, ma è quella di garantire un lavoro. La grande responsabilità della sinistra è quella di aver aperto le porte a 700.000 immigrati irregolari, la stragrande maggioranza di immigrati irregolari, e ovviamente di non averli potuti integrare. Nessuna ricchezza, tra virgolette, per i migranti, tanta ricchezza invece per le cooperative, e le inchieste che abbiamo visto nel corso di questi anni ne confermano. Ci sono anche, Molteni, ci sono anche esempi funzionanti, cioè non è che tutto è una mangiatoia, no? Ci mancherebbe altro. Il nostro è un grande paese che ha una rete sociale di volontariato clamorosa, e per questo io ringrazio chi fa questo tipo di attività. A casa mia il volontariato e la solidarietà la fai gratuitamente. I governi di sinistra spendevano circa 5 miliardi di euro per fare in alcuni casi della buona integrazione e della buona accoglienza, in altri casi della pessima integrazione e della pessima accoglienza, arricchendo e le inchieste per frode nei confronti dello Stato, per truffe nei confronti dello Stato, per appropriazione in debito, cioè soldi che vengono messi in tasca di soggetti privati e non messi a beneficio dell'accoglienza e dell'integrazione, che è uno strumento assolutamente fondamentale. Tra l'altro voglio anche ricordare che l'integrazione la si fa in due modi. La si fa con un punto di caduta tra la volontà dello Stato di integrare e dei migranti di essere integrati. Non sempre questo punto di caduta veniva raggiunto. Quindi non è mettendo più soldi e non è garantendo più servizi sulla carta, ma non nei fatti, che si crea la buona e sana integrazione. Vorrei sentire l'opinione di Matteo Biffoni su questo, perché la modifica dei decreti sicurezza, dei decreti Salvini, ripristina parzialmente il sistema di accoglienza territoriale, quello che teoricamente dovrebbe essere sui piccoli numeri, come diceva Molteni, che è quello che era gestito esattamente dai comuni, che prima si chiamava SPRAR, adesso gli hanno dato un altro nome, poi se per cortesia si riuscisse a mantenere gli stessi acronimi e gli stessi nomi farebbero un favore a tutti noi, perché così ci capiamo di cosa parliamo. Adesso si chiama in un modo diverso, però è sostanzialmente la stessa cosa, cioè voi comuni avrete in capo la gestione di un pezzo dell'accoglienza, no? I progetti sono i progetti che i comuni possono scrivere, che aiutano a definire, a sartorializzare su ogni territorio quelle sono le capacità d'accoglienza. Ora, io, lungi da me, per il ruolo che ricopro in questo momento, definire i percorsi che sono stati scritti dai decreti, sia quello precedente che quello dell'altro giorno, di due giorni fa, rispetto agli sbarchi, alle navi, eccetera. Ho le mie idee, ma insomma in questo caso ho un'altra veste. Certo è, questo penso che anche l'onorevole Molteni lo possa riconoscere, il sistema precedente, ma anche quello dopo i decreti di sicurezza scritti dall'allora ministro Salvini, non funziona. L'abbiamo detto come comuni più di una volta, nel senso, abbiamo bisogno che ci siano delle regole semplici, chiari, netti, precise, che aiutino un percorso ordinato indipendentemente dal numero degli arrivi, perché che ne arrivi 100 o ne arrivi 1000, quando arrivano in una città c'è bisogno di una strumentazione che questi nuovi decreti, almeno sulla carta, sembrerebbero introdurre, che permettono un percorso ordinato, gestito, regolarizzato nel senso della modalità di accoglienza, che finora francamente non abbiamo visto nei precedenti decreti. Questo l'abbiamo detto come sistema d'ANCI in tempi non sospetti e non certo per questioni politiche, prevedevano delle falle nel sistema che mettevano a repentaglio non tanto gli sbarchi, gli arrivi, su cui la discussione vedo piuttosto incandescente, ma la presenza sul territorio. Questa è stata la grande fatica. E quando dice l'onorevole Molteni ci sono stati degli esempi, certo ci sono stati degli esempi di gente che va presa e messa in galera, diretto come un treno, perché ha sfruttato soldi pubblici, ma soprattutto le persone. Però ci bisogna dire che il sistema dei comuni, di progettualità dei comuni, è stato portato ad esempio a giro per l'Europa come modalità di, per la stragrande parte dei suoi progetti, come modalità di, come capacità di inclusione sociale rispetto a quel percorso. Quel percorso è stato bloccato, comunque vada rivisto in maniera profonda dai decreti del ministro Salvini. Adesso si reintroducono una serie di regole che, ripeto, sono un pezzo del discorso, perché poi la questione immigrazione è, su questo è un punto su cui concordo, è molto più ampia ed è molto più delicata, andrebbe maneggiata con altri strumenti. Però si reintroducono una serie di strumenti che ci permettono a noi sindaci, amministratori del territorio, di provare a gestire in maniera più ordinata il momento dell'arrivo delle persone dai luoghi di sbarco. Molteni, soffermiamoci ancora un attimo su questo, ossia quello su cui vorrei concentrare l'attenzione, esattamente l'ultimo miglio, perché possiamo ragionare del passato come ha fatto lei. Dal 2012 al 2017 sono stati fatti entrare, ci sono state anche le primavere arabe, possiamo metterci tutto quello che vogliamo. Detto ciò, c'è un... abbiamo sul nostro territorio un numero elevato di irregolari, secondo alcuni calcoli ammontano a 600-700 mila, non è chiaro esattamente, proprio perché sono irregolari naturalmente. Una gran parte di questi non può essere rimandata nel paese di origine perché non ci sono accordi bilaterali, salvo per esempio quello con la Tunisia. Quello con la Tunisia è un esempio, ma funziona e non funziona, perché rimandare indietro la gente costa un sacco di soldi dal punto di vista proprio dei costi e della sicurezza, come le sai benissimo, perché è stato al Ministero dell'Interno, è stato al Viminale. Dunque, su queste persone qualcosa va fatto, in qualche modo va gestita questa presenza sul nostro territorio. Qual è il modo, secondo lei e secondo voi della Lega? secondo me il modo è quello rispetto al quale noi abbiamo applicato i fori con cui il sindaco che saluto, con cui ci siamo confrontati anche quando eravamo noi al governo. Noi abbiamo introdotto un sistema duale, chiamiamo così, per il sistema dell'accoglienza, proprio a fronte di una lettera della Corte dei Conti. La Corte dei Conti qualche anno fa disse il richiedente asilo, oltre l'80% dei casi ha la domanda di protezione respinta, non può essere trattato e non può essere, tra virgolette, accolto nello stesso modo in cui tu accogli e garantisci accoglienza e integrazione a un titolare di protezione internazionale. Uno è potenzialmente un migrante economico, l'altro è un titolare di protezione internazionale che per convenzioni internazionali, per buon senso, per leggi nazionali deve essere accolto. E quindi noi abbiamo previsto un meccanismo differente. Questo ha consentito cose, quindi un'accoglienza primaria richiedente asilo, integrazione seria per quei pochi la cui domanda veniva accolta. E questo, secondo me, è il meccanismo giusto, che ti consente di poter razionalizzare i costi, perché 5 miliardi di euro spesi spesso e volentieri male erano soldi sprecati, che finivano, ripeto, ad arricchire alcune cooperative e alcune onlus, e soprattutto razionalizzando i costi e ottimizzando i servizi, cioè tutti i servizi di integrazione, partendo dalla lingua italiana, ai corsi di mediazione linguistica e culturale, l'orientamento territoriale, la formazione, dovevano essere garantiti e ovviamente controllati e certificati. Noi ad esempio abbiamo aumentato i controlli, sia i controlli interni sia i controlli esterni sull'erogazione dei servizi, in modo tale che effettivamente fosse non solo accoglienza ma reale, effettiva, sana, buona, corretta e giusta integrazione nei confronti di chi aveva poi diritto e sarebbe poi rimasto in Italia. Questa secondo me è la logica corretta. Dopodiché ovviamente c'è da fare e mettere sul tavolo ovviamente un altro elemento di valutazione, non solo quello che fanno gli stati nazionali, che gli stati nazionali giustamente fanno nella gestione del fenomeno dell'immigrazione, ma quello che non fa il sistema europeo, perché se l'immigrazione è un fenomeno globale, la risposta dovrebbe essere prima dovrebbe globale, essere, poi e poi europea. E, poi europea. E questo è un altro punto fondamentale, ovviamente, che non abbiamo, gli spazi sono ristretti e il tema è enorme, come diceva lo stesso Molteni all'inizio, l'immigrazione sono un fenomeno globale di dimensioni enormi. Vorrei sentire qualche ascoltatore. Flavio dalla provincia di Monza, buongiorno. Sono regista, ma comunque sono fuori dalle parti. Una cosa che non riesco a capire, prima di tutto accoglierli va bene, quelli irregolari va bene, ma dove li mettiamo, perché non siamo organizzati per niente. Metterli nei piccoli comuni vuol dire creare dei gran casini, e la cosa più che mi dà più fastidio il discorso, a parte accogliere magari bambini, gli ammalati, i bambini li lascerei al suo posto, via. Tutte queste navi dell'OMG perché devono venire da noi? Perché devono venire da noi? Perché io sono d'accordo a volte sulla Lega quando dice la bandiera è tedesca, torna in Germania, la bandiera è olandese. Guardi, Flavio, su questo non apriamo anche questo capitolo oggi, perché è un tema che ha a che fare anche con le regole del diritto navale, per cui una nave che raccoglie dei naufraghi in mezzo al Mediterraneo non la puoi mandare ad Amburgo, perché non la puoi far arrivare ad Amburgo in quelle condizioni. Quindi, e su questo però si innesta ovviamente un dibattito anche sul tema della redistribuzione della solidarietà, cioè magari li puoi far arrivare a Lampedusa e poi far sì che la Germania prenda una parte di questi migranti, che è l'obiettivo, mi sembra, un po' di tutti, non solamente della Lega. Biffoni, è veramente, come ci dice Flavio dalla provincia di Monza, un casino quando li accolgono i piccoli comuni? Diciamo che non è certo dal punto di vista politico un argomento che ti porta tante pacche sulle spalle, perché è stato utilizzato nel supermercato degli argomenti della campagna elettorale, è stato spesso utilizzato come clava, se è questo il senso. In realtà secondo noi, secondo l'esperienza, è l'esatto opposto. La diffusione con piccoli numeri, anche su piccoli comuni, permette una gestione, al netto del fatto che gli operatori che ci stanno dentro devono essere persone qualificate e formate, che è assolutamente più gestibile rispetto ai grandi centri, anche nelle grandi città, perché un conglomerato di 200, 300, 400 persone, in qualsiasi luogo tu lo metta, anche all'interno appunto di una città più strutturata e più grande, crea di per sé difficoltà e tensioni rispetto a una gestione più ordinata e più organizzata. La diffusione in piccoli numeri, su piccoli centri, anche su comuni di dimensioni ridotte, è storia provata quella appunto di quando si chiamava SPRAR, adesso spero che insomma, ci diano una definizione ultima, che in realtà il sistema funzionava, che dava delle risposte efficaci anche in piccolissimi comuni, anche in comuni di 1.000-2.000 abitanti, perché nel frattempo se abbinandolo a un sistema di welfare che ti permette per esempio di ripristinare lo scuolabus piuttosto di riaprire una piccola bottega di paese, dava una risposta globale all'intera comunità, se ripeto ben fatta. Questo era il sistema che stavamo organizzando, e a Flavio, l'amico Flavio, ai tanti insomma, radioascoltatori che ce lo domandano, è proprio questo quello che noi come sindaci, guardate, in maniera piuttosto diffusa abbiamo detto: non ci mettete lì una roba con 300 persone dentro, ma come la gestisco, come faccio a spiegarlo? Allora sì, diventa un casino secondo la definizione precedente, sì, perché faccio fatica, mentre se ce n'ho 20, 15 di persone in un luogo, 10, è chiaro che la relazione e la capacità anche di inclusione diventa molto più efficace. In 30 secondi, Molteni, rispondiamo a un ascoltatore via WhatsApp, dice, può chiedere a Molteni perché hanno chiuso il sistema degli SPRAR? Perché è una balla, scusi, noi non abbiamo chiuso assolutamente nulla. Gli SPRAR, che abbiamo chiamato SIPROMI, che adesso credo si chiameranno SAI, noi non li abbiamo chiusi, noi siamo arrivati al Ministero con 20, guarda, sono dati che mi ricordo perfettamente, noi siamo arrivati al Ministero nel 2018 con 26.000 persone negli SPRAR e circa 1.500 progetti dei comuni, siamo andati via dal Ministero, 26.000 erano le persone negli SPRAR, 1.500 erano i comuni. L'ho detto prima, noi abbiamo previsto un sistema duale per ottimizzare i costi, per razionalizzare i costi, tra i soldi che abbiamo risparmiato da un sistema di accoglienza che non funzionava, l'ha detto correttamente anche prima Biffoni, il sistema precedente non è che funzionasse, funzionava male, anzi funzionava peggio, noi quei soldi li abbiamo utilizzati per la sicurezza. Non sono d'accordo, mi spiace dirlo, sul modello di sistema diffuso, di accoglienza diffusa, al netto del fatto che i grandi centri non li ha mica creati Salvini, i grandi centri li ha creati la sinistra del governo, Bagnoli, Conetta, Castelnuovo a Porto, il CARA di Mineo, parlavate voi prima dei grandi CARA in Puglia e in Calabria, tutta roba fatta e creata dalla sinistra. Il sistema di accoglienza diffusa, dal mio punto di vista, rischia di scaricare sugli enti locali, sui sindaci, in modo particolare sui piccoli sindaci, per vocazione dovrebbero fare altro, problemi enormi. Problemi enormi, dice lei Molteni, dobbiamo veramente chiudere. Ringrazio Francesco da Napoli, Cristiano da Milano, tutti gli altri che ci hanno chiamato e non siamo riusciti a far intervenire in diretta, però insomma, mi interessava sentire anche i punti di vista diversi e per alcuni aspetti anche simili di Biffoni e Molteni. GR24, noi ci risentiamo domani alle 6.30, ciao! Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.